Buonasera, buon venerdì, buon fine settimana a tutte, a tutti e a tutto. Ci ritroviamo con Atanasio per presentare, per fare una chiacchierata, ecco, presentare non è un po' troppo celebrativo, ecco, forse, per far avere il suo punto di vista. Su fare una chiacchierata su questi due libri che ha scritto. Il primo è Rosso Bagliù. Leggo anche il sottotitolo così si capisce meglio: Etnografia delle nuove della nuova composizione di classe delle periferie francesi. Più teorico che però dà un bello spaccato di quello che possono essere ora le periferie. E poi La Santa Canaglia, che ha un sottotitolo, secondo me è ancora più bello, vabbè, il primo è anche carino, però il secondo mi piace tantissimo, Etnografia di militanti politici di Bagliù. A noi la parola militanti ci piace tanto, e perciò è veramente affascinante anche subito, cioè questa parola che salta subito all'occhio, ormai non si usa, si usa pochissimo, purtroppo. E, ho amato tantissimo questo, cioè il primo, ok, il secondo l'ho amato tantissimo perché ci sono tanti testi che riguardano proprio i verbali di assemblee, le voci stesse dei militanti, e mi sono immaginata se qualcuno proprio scrivesse i nostri verbali, le nostre discussioni, cioè tutto materiale che per noi magari rimane così, però ecco, forse per un sociologo, ti posso definire sociologo? Ma non lo so, studioso, ricercatore, scrittore, militante che osserva, ecco, militante che osserva, militante osservante, ecco, mi piace, ho definito questa, bella, vero? Loro sono i suoi amici, perciò, perciò te la tieni ora. Ecco. Ecco, ormai mi sono persa nelle mie battute. Sarebbe veramente molto interessante se qualcuno che osserva da fuori spiega quello che viene, che magari noi non riusciamo a capire stando dentro. Però bando alle ciance, ti voglio lasciare la parola proprio per presentarti e raccontare un po'. Quindi a te il microfono, se no in radio ZAM non ti sentono. Ecco, ecco. Allora io vi ringrazio innanzitutto a tutti e tutte, perché per me, appunto, come dicevo poco fa, è anche un modo per fare un giro e vedere che succede in Italia dal vivo, ecco, live un attimo. Secondo me vale la pena, come dicevi poco fa, partire dall'introduzione di questo secondo libro, che è un'introduzione che ha fatto Emilio Quadrelli, che non so, penso conosciate tutti, che è un compagno, più di un compagno, che è scomparso qualche mese fa. E diciamo che questa ricerca deve moltissimo, se non tutto, a lui, sia l'idea di andare per un periodo nelle periferie parigine, sia poi anche dopo l'uscita dei libri, la possibilità di fare un sacco di presentazioni, che il libro ha circolato, è molto merito suo. Questo non c'è dubbio. Appunto, questa ricerca è nata perché io avevo letto un capitolo di un libro di Emilio Quadrelli sulle periferie, che proponeva un punto di vista delle periferie parigine, con però una ricaduta anche in Italia, che io consideravo molto importante, perché in quel periodo di militanza attiva in Italia, per me, diciamo, i danni che stavano facendo certe visioni del mondo, che escludevano l'idea di classe, puntavano un po' tutto sulla questione postcoloniale, secondo me facevano danni dentro il movimento. Allora lui, questa prospettiva che dava della Francia, mi ha interessato, e c'è stato in quel momento là per me la possibilità di andare a Parigi, stabilirmi in due periferie e starci 2 anni, ecco. Quando sono arrivato a Parigi, la prima difficoltà era le possibilità di entrare in periferia, perché non avevo alcuna idea. E il primo tentativo che ho fatto è stato, logico per me, era quello di cercare di arrivare nelle banlieue attraverso quelli che erano i movimenti sociali, i movimenti di città. Ecco, là già si è creata una prima spaccatura, perché mi sono rapidamente reso conto che tra le periferie parigine e tutto il mondo politico che stava nella piccola Parigi non c'era alcuna relazione. Anzi, spesso questi movimenti si ponevano da un punto di vista che non era molto differente da quello che avevano gli attori politici istituzionali, che non i movimenti non andavano mai oltre una generica dichiarazione di solidarietà per la repressione poliziesca, ma dal punto di vista politico avevano una visione dei giovani e delle giovani di banlieue che era esattamente quella del mainstream, perché, come dire, c'era quest'idea, quella sì, tipicamente colonialista, l'idea che tutto quello che non fosse occidentale nel pensiero politico andava rimandato al mondo della follia, del tentativo di accesso al consumismo, eccetera, eccetera. Quindi io un primo passaggio che ho dovuto fare è stato quello di riuscire ad integrarmi dentro le periferie, poi magari racconto anche un attimo come. Il secondo passaggio è stato quello che io chiamo una decolonizzazione della mia coscienza, cioè uscire anch'io da tutti i canoni occidentali rispetto a quello che è la lotta politica. Perché, ecco, qua faccio un esempio etnografico, io le prime chiacchierate che facevo con abitanti di periferia dotati di una fortissima coscienza di classe, ma forte, che io non avevo visto né nelle periferie di Bologna, ma neppure nella periferia di Cosenza, mi veniva spesso automatico chiedere se avessero una formazione politica marxista-leninista, e la reazione era spesso stizzita, perché loro non avevano come riferimento quello, avevano altri riferimenti che erano però sicuramente politici. Poi io sono arrivato nelle periferie prima a Clichy-sous-Bois, dove era stato un po' l'epicentro delle rivolte del 2005, e lì ci sono arrivato un po' facendo un po' il ricercatore nascosto, ecco, anche se poi il ruolo è uscito fuori subito. Quindi io sono stato in contatto con la popolazione, con i giovani, facevo la vita di quartiere, mentre tutto ciò che c'era di politico a Clichy-sous-Bois era tutto quell'associazionismo che stava a galla tra l'istituzionalizzazione e il tentativo di rapportarsi ancora con i giovani delle banlieue. Invece il secondo periodo, che è stato quello a Aulnay-sous-Bois, era dentro collettivi politici, dove quindi il mio ruolo di ricercatore, ma anche di militante che proveniva dall'Italia, era chiaro, quindi là ho militato a tutti gli effetti, sono riuscito a entrare nelle dinamiche del quartiere, perché c'erano delle persone che mi hanno presentato al quartiere, mi hanno subaffittato una casa popolare, quindi là ho fatto una vita di quartiere ma anche di militante allo stesso tempo. Per quanto riguarda la ricerca, il tipo di metodologia è quella della corricerca, è stata corricerca pura, nel senso che io ho tentato di usare quello che era il metodo operaista, quindi di uno scambio circolare fra ricercatore e chi è, tra virgolette, oggetto di ricerca. Ed è una cosa che per certi versi, almeno nella fase della ricerca, è riuscita bene. Poi nella restituzione dei risultati ci sono state magari delle difficoltà legate anche alla lingua, ecco. Però in generale questo metodo della corricerca ha funzionato, è stato condiviso dagli abitanti e dai militanti e dalle militanti delle banlieue. In tal senso ha avuto un peso molto forte il legame che alcune componenti politiche dentro la periferia avevano, quelli più prima generazione, avevano con tutto quello che era il mondo politico degli esuli italiani. Quindi insomma una serie di cose hanno creato la condizione perché io potessi stare dentro le banlieue, militare e riuscire ad avere accesso a tutte le organizzazioni politiche, tranne un paio che erano particolarmente legate all'odio per tutto ciò che era bianco, quindi non era possibile un accesso di quel tipo, ma era veramente una minoranza rispetto a tutto questo. Sì, magari. No. Che mi ha subito incuriosito, cioè hai spiegato che sei andato in Francia perché ti avevano incuriosito dei lavori di Quadrelli, ma perché non l'hai pensato sull'Italia? Ma questa è una domanda io mentre leggevo il libro, perché le periferie che descrivi, almeno su Milano, Cioè sono, io la vedo un po' agli albori, cioè un po' in nuce rispetto a quello che è già accaduto in Francia. Però ad esempio la periferia di Milano, anche non so gli ultimi articoli che avete visto su Stadira in questi giorni, c'è stato purtroppo un bruttissimo omicidio qua vicino, ma una roba assurda e stupidissima. C'è un ragazzo, a me non piace dire di periferia, cioè abitiamo qua, io abito qua, tutti abitiamo qua, ha rubato dei Belgratta e Vinci, e l'eletto, ecco, è il proprietario cinese, l'ha preso a forbiciate, cioè che tu pensi 20 forbiciate. E quindi c'è, cioè, anche questi, e degli articoli che sono usciti oggi su giornali mainstream, cioè uno era bellissimo, Stadera, l'hai visto? Stadera, quartiere per dove cresce la malavita, roba del sud di Milano, cioè che, una roba stranissima, perché cioè, questo quartiere che si chiama Stadera, che abbraccia buona parte della zona 5, anche lì fuori di testa, perché qua viene definita più periferia, mentre verso di là, che è molto più vicino a, magari alla metro, all'università Bocconi, i prezzi sono altissimi. Quindi come la puoi definire periferia? Un posto dove un loculo ti costa 800-900 euro al mese, cioè ci sono proprio dei cortocircuiti assurdi. Ecco, dopo tutta questa perché volevo un po' portare il discorso qui, ti sei mai interessato all'Italia o perché proprio alla Francia? Allora, io alle periferie italiane mi sono interessato come militante per tanti e tanti anni. La particolarità della Francia in quel momento là stava in quel momento là stava nel fatto che c'era stata una rivolta che io chiamo di classe, che era stata la rivolta più grossa del secondo dopoguerra dentro l'Occidente, era quello la capacità di reazione, ecco, più che le dinamiche della periferia, che poi però tutte le dinamiche della periferia sono, sì, le ho viste, le ho cercato di interpretarle, però il discorso era capire cosa muovesse questi giovani all'azione. Qua apro già una parentesi, perché poi il concetto di giovani delle periferie è anche un po'... No, è un po' il discorso che, come dire, che chiamare giovani quelli che fanno le rivolte nelle periferie significa dire che sono dei ragazzini giovani che non hanno niente nella testa, e per estensione la periferia parigina è la periferia dei folli, dei senza idee. Ecco, a me la cosa che aveva colpito principalmente era che in tutto quel discorso sulla mancata integrazione, sul comunitarismo, eccetera, eccetera, poi se però tu vedevi quello che era stato toccato dalle rivolte del 2005, tu vedevi questo l'ho visto giusto ieri, quindi me lo ricordo perciò, 1366 agenzie interinali bruciate. Ah, vero, proprio le immagini delle agenzie interinali. E con tutte le, tutto quel sottobosco di industrie che erano installate in periferia perché avevano degli sgravi fiscali, ma non avevano l'obbligo di assumere gli abitanti delle periferie. E quindi la rivolta ha toccato tantissime queste aziende, dalla Citroen, eccetera, eccetera. E quindi ho visto del politico in queste azioni di rivolta. E diciamo, questo la ricerca l'ha confermato ampiamente, perché, come dire, io nell'approcciarmi alla conricerca non sono partito da ipotesi predefinite, ma soprattutto la conricerca dovrebbe prevedere, cioè l'idea che tu non hai uno schema teorico di riferimento. Io non avevo schemi teorici di riferimento, non sono neanche un sociologo, cioè, ma partire un po' da frammenti per cercare poi di cogliere il quadro. Poi in realtà, siccome sti libri hanno avuto una certa risonanza in Italia, penso perché poi c'era anche bisogno, secondo me, in un momento di cambiamento, di qualcosa che richiamasse un po' la classe, poi io ho rilasciato un sacco di interviste dove poi è uscito uno schema teorico, quello del lumpen proletariat, diciamo della coscienza di classe, della coscienza politica, che però non sono in realtà dentro i libri, perché io nei libri cerco semplicemente di dare la parola e di descrivere un quadro. Però se dovessi fornire un percorso teorico per questa ricerca, diciamo che io sono arrivato in Francia con l'idea che le rivolte fossero delle rivolte agite da quello che Marx definiva il lumpen, quindi tutti i rimasugli di epoche passate che sono esclusi dai nuovi processi produttivi e sono fondamentalmente i miserabili, gli infami, ecco. Sì, tutto un discorso sulla definizione di precario, di vite precarie, che mi ha un po' colpito, perché cioè, questo termine si usa tantissimo, ma viene usato anche con molta facilità e molto anche con poco senso. Invece tu fai questo discorso da definizione da vita precaria, che sono magari quelle che viviamo un po' tutti noi, cioè se hai un lavoro precario non riesci a costruirti una vita sociale solida, non hai legami magari familiari così forti che ti permettono comunque di sopravvivere, e non hai proprio tutta la rete sociale, sociale che non esiste, rete magari familiare anche in quel caso, sociale nel senso di appunto persone che riescono a, sociale non inteso, volevo dire come stato, ecco, volevo fare la differenza, che possono darti un appoggio. Quindi facevi riferimento proprio a questa precarietà della vita, di questo capitale militante, lo definisci a un certo punto, e mi piaceva se spiegavi meglio questa definizione. Sì, allora, diciamo che per quanto riguarda la geografia lavorativa che c'era dentro le periferie, quindi tutto il discorso dell'Umpen era un discorso che non reggeva, proprio perché gli abitanti delle periferie era proprio il mondo del lavoro in Francia, era quel mondo del lavoro che viveva di lavori precari, spesso al limite tra il legale e l'illegale, quindi l'illegalità, il piccolo spaccio e quelle cose là rientravano normalmente nella giornata lavorativa delle persone. E poi mi confrontavo con una condizione, diciamo, di precarietà e di povertà estreme. Per esempio, Aulnay-sous-Bois e tutto il dipartimento della Seine-Saint-Denis sono, per esempio, la provincia, sarebbe intesa. Sì. Sono la provincia d'Europa con il più alto numero di morti per Covid. Perché la gente non ha accesso alle strutture mediche e perché mediamente vivono in 4 metri quadri per persona. Quindi, Covid. E quindi cosa succede? Che dentro quel contesto lì, quindi tu assistevi a questi giovani e giovanissimi che fin da ragazzini loro avevano, come dire, io li definisco i racconti che girano nei libri, quindi l'idea che loro si riuscissero a costruirsi una fortissima coscienza di classe legata al presente di miseria che vivevano, che era però miseria personale ma di contesto, perché poi tu parlavi con questi ragazzini di 15 anni che avevano problemi a scuola, problemi al lavoro, il problema della violenza poliziesca, mediamente un padre in cassa integrazione, una sorella un ospedale psichiatrico, questo era il quadro, e dentro questo quadro però si inseriva anche, diciamo, tutto quel discorso per moltissimi e moltissime dell'origine straniera, tra virgolette, quindi francesi di seconda, terza generazione, e quindi c'era tutto quel quadro legato un po' alla memoria delle lotte, perché tutte le organizzazioni politiche che stavano dentro le periferie, che stanno tutt'oggi dentro le periferie, compivano un tentativo costante di trasmettere tutto il portato delle lotte delle periferie francesi. Quindi questo insieme di solidarietà che nasceva dalla condivisione di un presente di miseria, solidarietà che veniva dalla trasmissione di questa memoria delle lotte, creava una fortissima coscienza di classe, intesa nel senso di una capacità di individuare i responsabili delle proprie difficoltà, dei propri mali, di saperli individuare, di saperli anche colpire. La polizia, nel senso, fa pure il suo dovere, cioè è subito qualcuno. Sì, diciamo che io nelle tante presentazioni che faccio, anche in spazi militanti, tutto il discorso della violenza qualche volta esce. Ecco, io sul discorso della violenza di solito non mi soffermo, perché in quelle periferie là il discorso della difesa, della violenza e della necessità dell'autodifesa, un discorso che non si pone neanche in essere, perché è un discorso necessario, perché sono periferie veramente ipercontrollate, dove l'azione della polizia, non so poi in Italia come adesso, ma dove l'agire poliziesco è un agire veramente infame, e poi c'è tutto quel mondo che è legato diciamo ad agenzie del potere, che in altre situazioni magari hanno un ruolo neutro, ecco, ma dentro la Francia tutto quello che è l'assistenzialismo sociale, tutto quel discorso là, svolge la stessa funzione degli apparati statali, controllo e repressione, sì. Quindi tutto il discorso della violenza è un discorso che viene maturato fin da giovanissimi, ecco. Infatti un po' quando diciamo fai un po' una non viene in mente, non classificazione, comunque elenchi, ecco, elenco di tutte le varie diciamo i vari collettivi di prima o di seconda generazione, a me ha colpito che c'erano più alcuni che erano proprio solo dedicati alla violenza, cioè non dedicati nel senso che avevano come scopo, si occupavano solo della violenza poliziesca, cioè facevano solo questo, cioè collettivi che si occupavano solo di questa parte qui, cioè vuol dire che è una roba veramente tanto tanto sentita. Mi ha colpito. Là diciamo che il numero di morti poliziesche, mo adesso io non ho i dati sotto mano, per dirti nel 2023 gli ammazzati dalla polizia per strada sono stati 43 in Francia, e quindi i collettivi polizieschi hanno collettivi presenti nelle periferie in cui io sono stato, però erano anche capaci di organizzarsi in rete e quindi di avere un'organizzazione nazionale. E quindi erano fortissimi, come fortissimi, però erano anche a macchia di leopardo collettivi che si occupavano di tante altre cose, ma stando dentro i quartieri, quindi era un lavoro quotidiano nei quartieri, assolutamente. Poi che queste organizzazioni avessero anche una fase di difficoltà, quando ci sono stato io, e che secondo me si è vista poi anche nelle rivolte del 2023, quella diciamo era una crisi di militanza, perché poi le periferie francesi sono periferie d'Europa e tutto il discorso della difficoltà della militanza in questa fase qua, cioè loro non ne sono estranei, per quanto rimaneva una capacità diciamo di tessere legami con questi giovani, non con i giovani ma con chi praticava la rivolta, che era molto importante, perché poi il ruolo di queste organizzazioni politiche dal mio punto di vista era proprio il tentativo di trasformare questa rabbia che io definisco nei termini di coscienza di classe in coscienza politica e sociale, quindi il tentativo diciamo di organizzare e strutturare questi giovani per portarli diciamo al lavoro politico di lunga durata per trasformarli in militanti politici. Ecco, ma secondo te c'è, infatti questo è un altro tema che mi piaceva sviscerare, secondo te ci sono riusciti, cioè alcune associazioni hanno veramente perché mi è venuto associazioni fa cagare, scusate, si può tagliare dalla registrazione? Facevo fare infatti togliete sta minchiata diciamo di questi collettivi, di questi laboratori politici, secondo te c'è qualcuno che effettivamente è riuscito ad integrare? Allora sì, no. Diciamo che le organizzazioni politiche di periferia agiscono in periferia, agiscono anche sul tessuto sociale delle banlieue. Poi tu quando dicevi associazioni non è un termine sbagliato, perché molte organizzazioni politiche sono allo stesso tempo associazioni, perché per tutto un discorso legato a come è organizzato l'associazionismo in Francia, però poi la grande distinzione fra le associazioni vendute e non vendute, ecco quello detto in parole povere, tra i collettivi, i gruppi e anche le associazioni che riescono a mantenere una linea politica integra rispetto ai richiami degli apparati, loro hanno una capacità di intervento sui giovani, perché i giovani conoscono e riconoscono questi collettivi politici, solo che magari spesso li inquadrano come militanti generosi che non hanno ottenuto grandi risultati, ecco, nel loro lavoro politico, perché poi un discorso tipicamente francese è quello della capacità che ha avuto lo Stato nel corso dei decenni di cooptare i gruppi politici, quindi l'idea classica che pigli due dei quartieri e li fai diventare ministri è troppo, anche se una ministra l'hanno avuta, ma parlamentari per far vedere che sei democratico, quello, e loro era veramente una cosa a cui stavano molto attenti, l'idea di non farsi cooptare politicamente da organizzazioni politiche, e lo stesso valeva anche per i movimenti, nei confronti dei movimenti cittadini, ecco, quindi la distinzione che c'era fra tutto quello che stava nella periferia e fuori dalla periferia a livello politico anche all'interno, diciamo, questa roba non mi era proprio all'occhio. La, anche la differenza tra i collettivi di Parigi centro e quelli della periferia. Allora, tutto il discorso che è la relazione fra i movimenti di città e i movimenti di periferia è una parte importante del libro, perché, perché, come dire, io mi sono ritrovato in periferia con una serie di situazioni che erano toste nella relazione città-periferia, perché tu avevi i movimenti di città, come ti dicevo, che... come dire, consideravano questi ragazzotti di periferia come persone che volevano un accesso al consumo, dimenticandosi però che il discorso della merce è un discorso, come dire, questi erano i produttori della merce, non si capisce bene perché chi produce la merce non ne debba essere attratto, ecco, non si capisce. Quindi c'era tutto questo discorso tra movimenti di movimento di banlieue e movimenti di città, che era un discorso di rottura totale per due motivi. Il primo motivo era una assolutamente diversa appartenenza di classe, perché al contrario di quello che almeno era 10 anni fa l'Italia, la capacità di intervento dentro le periferie in Italia era immenso rispetto alle banlieue. Cioè, nelle banlieue, se tu non nasci e non cresci in una banlieue, dalla città non hai nessuna capacità di intervento politico, perché prima non ti viene riconosciuto, in secondo luogo c'è quel discorso che dicevo prima del, diciamo, del colonialismo culturale, quindi l'idea che tutto ciò che non proviene da schemi ideologici precisi non viene accettato dai movimenti cittadini, così come non viene accettato l'Islam politico, che invece era un fattore di politicizzazione fortissimo dentro le banlieue. Sì, molto interessante. Cioè, poi gli stessi collettivi che però quando si facevano i social forum c'avevano dentro 3/4 del cattolicesimo. Quindi era una rottura tostissima da quel punto di vista. Infatti negli ultimi anni un certo riavvicinamento con quelli che hanno i movimenti di sono i movimenti di città c'è stato, a mio avviso, e anche moltissimi dei compagni e delle compagne che ancora sento in Francia, perché con il mordere e l'avanzare della crisi economica anche una fetta della nuova generazione di città è finita un po' nello stesso cono d'ombra dove stanno le banlieue. Questo cosa ha prodotto? Ha prodotto marginalizzazione, riavvicinamento dell'appartenenza di classe, ma anche riavvicinamento dei, come dire, dei, non viene il termine, del controllo sociale, quindi della repressione, che non è un punto secondario, perché una delle critiche che i banlieusards facevano ai movimenti di città, una critica che però derivava da una diversa appartenenza di classe, era che anche il livello repressivo era differente, che quindi loro non si sentivano di avere degli scambi con i movimenti di città, anche perché il livello di repressione a cui andavano incontro era un livello di repressione differente. Però sottolineo per l'ultima volta che la grande rottura con i movimenti cittadini è una rottura legata a questa differente appartenenza di classe, perché io quando sono arrivato a Parigi, il tentativo di entrare nelle periferie, il primo tentativo di entrare nelle periferie in automatico è stato attraverso i movimenti di città. Poi mi sono reso conto che il mondo di città non conosceva niente delle periferie, e soprattutto era, non so come dire, io sono arrivato a Parigi, no? Dove i primi tempi, dove c'erano le banlieue in fiamme, ma banlieue vuol dire, le banlieue nord-est di Parigi vuol dire 3 fermate di metro, questa è la distanza, e poi ci avevi sti compagni e ste compagne a Parigi che facevano le serate sulla TAV, che mi attaccavano, tappezzavano la città con i manifesti delle rivolte che c'erano ad Atene in quel periodo là, e poi ce l'avevano la rivolta a 20 metri, ecco, quella era... Ah, questo è quello che tu che ti sei decostruito? Sì. Perché anche, infatti, leggendo si nota tantissimo questo lavoro... Vabbè, cioè, che hai fatto su te stesso, ma che chi legge il libro lo fa anche su se stessi. Cioè, spero che chiunque legga il libro abbia il mio stesso effetto. Ed è un po' quello che succede quando magari si ha rapporti con persone di seconda generazione, con un DNA migratorio diverso dal nostro, ecco, perché veramente ti approcci a un concetto di classe diverso da quello che ne abbiamo in testa, secondo me. Cioè, perché magari, come dici tu, noi abbiamo una definizione di lotta di classe, di effettivamente di classe, molto basata sul nostro essere bianchi, sul nostro tipo di società, la nostra famiglia, il nostro ambiente, e approcciandoci con persone diverse, cioè tutte le tue costruzioni comunque cadono. Cioè, a me è accaduto spesso, e nel libro si emerge tantissimo. Purtroppo, in Italia ancora non ci sono dei movimenti, delle associazioni, lo ripeto, che qua ho detto proprio associazioni di migranti con coscienza di classe così forte come alcune che ho letto qui, ma perché qui la storia è molto più lunga, quindi l'ho visto come un possibile futuro che magari potrebbe essere anche bello, non lo so, in questo senso di auto-organizzazione, perché molto spesso qui i migranti vengono solo cooptati da collettivi, movimenti, quando si può fare comodo, quando c'è la notizia, ok, sì, occupiamoci anche dei migranti, ma sì, occupiamoci noi di quel problema lì che non è manco nostro. Non so se è chiaro il cortocircuito. Guarda, io rispetto all'Italia appunto parlo da sé perché non vivo in Svizzera, quindi, però osservando dall'esterno, come dire, quello che dici tu è giusto, perché però io qua provo, perché appunto puoi dire che io quando ho visto tutto un po' quello che è nato intorno al Covid, che era il periodo un po' che stavo più attento all'Italia, riuscivo anche un po' a muovermi, ecco, io ho visto che, lasciando da parte Milano, che non ho capito bene, però che in generale era un movimento molto infiltrato dall'estrema destra. A Roma, tutto quello, il discorso no Green Pass, eccetera, eccetera. Ecco. Però ho visto che questo non succedeva a Torino. Torino è stata l'unica città dove ho visto io i cortei spontanei, ho anche partecipato a qualcuno, dove erano assolutamente in mano alla seconda generazione di immigrati. Perché anche la città, che rispetto all'immigrazione nordafricana ha conosciuto un'immigrazione precedente fondamentalmente a tutto il resto d'Italia. Quindi io là per la prima volta ho rivisto un po' delle dinamiche che avevo visto dentro le periferie. Quindi penso che il discorso, diciamo, che deve passare ancora un po' di tempo per la seconda generazione, però lì è quello che è necessario, il lavoro politico dentro questi territori e dentro queste soggettività. La parte sulle interviste, sulle assemblee, c'è qualcuna che magari ti piace ricordare, così, per chi non ha letto il libro, o qualche essere umano che ti piacerebbe condividere con noi? Sì, no, diciamo che io quando faccio le presentazioni solitamente ci sono un paio di abitanti delle periferie che partecipano sempre online, di solito, perché là c'era quel nocciolo duro dentro la militanza, che effettivamente erano persone incredibili. Un esempio concreto, ecco, io alcune volte mi muovevo con alcuni di loro, che magari ci trovavamo in periferie distantissime da quelle in cui loro agivano politicamente, vivevano, eccetera, eccetera, eppure loro si muovevano in periferie dove erano conosciuti e riconosciuti da tutti e tutti i giovanissimi che stavano, come se un militante o una militante dello ZAM si ritrova, non lo so, un quartiere a 50 dell'Interland a 50 km di qua e viene riconosciuto come un compagno e come qualcuno che fa attività politica per il quartiere. Quindi tutto quel mondo là era per me un mondo che mi è rimasto dentro, con cui io scambio, eccetera, eccetera. Ed era anche un mondo che era in prima fila nell'organizzazione, in quel periodo che c'ero io, di tutto quello che si muoveva intorno alle cosiddette primavere arabe, ma all'inizio di questi movimenti qua. Invece rispetto alla componente più giovane, sia militante che non militante, sì, là perché Io in alcune introduzioni alle interviste l'ho anche scritto che io non ero molto contento di queste interviste perché erano persone con cui io avevo un rapporto politico, umano molto bello che un'intervista non poteva mai rendere. Quindi non ci sono interviste con persone che io non conoscessi già da mesi, mesi, mesi. Ecco. Domande dal pubblico, curiosità, vai. Intanto ti ringrazio di aver insistito a voler presentare qui i libri, perché effettivamente ci eravamo un po' persi nell'epoca di comunicazione social. Atanasio ha fatto una cosa bellissima, ci ha scritto e poi ha insistito più volte perché noi ci perdevamo il messaggio, non rispondevamo subito, quindi grazie mille. In realtà, vabbè, io ho tantissime domande e cerco di farne una sola. In Francia succedono delle cose, qui no. In Francia un sacco di gente fa gli scontri, il sindacato, l'equivalente alla nostra CGIL, guida i cortei con gli scontri o permette che ci siano i cortei dove poi alla fine si sa che si fanno gli scontri, qui no. E volevo chiederti, così sembra così una roba di cronaca e basta, però mettiamola così, anche parlandone con chi non è militante è evidente, palese, che in Francia il popolo scende in piazza, fa casino, anche se perde, anche se poi la riforma viene fatta, comunque le proteste ci sono, poi la gente va a votare, e questa cosa viene ormai data come dato culturale, come se i francesi sono fatti così, lo sappiamo. E per cui qual è invece, da parte tua che sei stato lì a vedere mentre cadevano le cose, quali sono le reali cause? Molte volte quando si parla, non so, mia madre, sì, perché sai, in Francia, paese ex coloniale, la gente che arriva dalle colonie ha sentito su di sé il dominio proprio di chi aveva, si sentiva l'impero, e quindi il francese bianco tratta l'ex colonizzato come una pezza da piedi, come un reietto, perché io sono bianco e tu sei soltanto uno che arriva dall'Algeria, penso che dal Senegal, penso che dall'Africa subsahariana. È quello, quindi prima domanda è quello. Seconda grande, cioè seconda altra parte è: la Francia è comunque un paese che sta bene, tra virgolette, cioè comunque ha una crescita economica, è l'unico paese in Europa che ha una crescita demografica. Ci sono, cioè l'impressione che se ne ho io dall'Italia è un paese dove ci sono i funzionari pubblici, cioè si sentono funzionari pubblici, e cioè quindi sono persone serie che ci tengono, fanno cose, invece che qua sembra tutto buttato a caso, cioè nel senso vai a qualcuno di noi ogni tanto prende le denunce e vai a farti dare fuori delle denunce, non hanno le carte nelle stampanti, ti chiedono scusa, si sentono dei cretini perché sono tutti sgarruppati, non hanno tempo per darti l'appuntamento perché c'è un funzionario su 120 persone, cioè come funziona lì in Francia, cioè, quali sono le motivazioni secondo te per cui queste cose sono, se sono vere queste vulgate che si raccontano, per cui il benessere ti permette di fare la rivolta, non lo so se è vero, non lo so, e poi se è veramente il peso dell'essere ex paese coloniale veramente crea così tanto poi odio, voglia di rivalsa. Su questo io posso dire che sicuramente bisogna fare una differenza nuovamente fra tutte le rivolte che accadono dentro le periferie, che sono rivolte dei giovani delle periferie, e tutto quello che succede nel mondo cittadino, perché la rivolta, le proteste contro l'aumento dell'età pensionabile, i gilets jaunes, eccetera, eccetera, sono movimenti che sono poco attraversati dalle componenti di banlieue. Quindi se io prendo quello che è il movimento di città, che ha una capacità in effetti di muoversi importante rispetto all'Italia, non c'è, secondo me i motivi, io azzardo 3-4 motivi. Il primo, secondo me, questa però è anche per la mia formazione politica, è che una capacità di protesta esiste perché c'è un tasso di sindacalizzazione che è un quinto dell'Italia, perché sicuramente una delle difficoltà del muoversi politicamente in Italia è legata ancora a queste centrali sindacali, quello è sicuro. Invece là la poca militanza dentro i sindacati, là è iscritto al sindacato tipo il 15% dei lavoratori, ecco, di questo parliamo in Italia, sarà 5 volte tanto. Questo è sicuramente uno dei motivi. Poi in Italia c'è stata, secondo me, purtroppo la capacità di rompere un po' quella che era la memoria storica di lotta che c'è stato negli anni 70. Questo è dovuto, secondo me, non tanto, come vuole la vulgata, al berlusconismo, ma a un processo molto più ampio che vede delle, come dire, delle zone cuscinetto all'interno, come, non so come dire, secondo me i danni che ha fatto da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle nel incanalare da rabbia verso il qualunquismo, il populismo, è sicuramente una cosa che ha bloccato la capacità di reazione delle masse in Italia negli ultimi 15 anni, di questo sono certo. Poi ci sono anche dati un po' più terra terra, come dire, quello che dicevi tu, il tasso di natalità, se tu c'hai 15 milioni di persone tra i 18 e i 30 o ce ne hai 5, secondo me nella capacità anche di impostare dei lavori politici cambia nettamente. Quindi io direi una memoria di quelli che sono stati gli anni 70 che è rimasta molto più viva in Francia, la mancanza di come dire, di partiti o di un qualche cosa che ha fatto un po' da freno ai movimenti politici in Italia, come il Movimento 5 Stelle, che in Francia non c'è stato. E quindi queste io le trovo come le due cause principali, poi la natalità eccetera eccetera. Poi secondo me un altro elemento da, come dire, da sottolineare è il fatto che tutto quello che si muove a livello politico in Francia negli ultimi anni, lasciando da parte i movimenti a difesa dei territori, quindi sul Levement de Terre eccetera eccetera, tutto quello che si è mosso a livello politico in Francia, io non gli do, cioè ammiro la capacità di reazione del popolo, tra virgolette, ma non gli attribuisco un grande valore politico, perché quelli sono, diciamo, movimenti che riguardano, come dire, l'aristocrazia operaia, quindi tutto un mondo garantito che quello sia un lumpen, che è assolutamente in putrefazione, nel senso che di un giovane della banlieue che aumentano l'età pensionabile gliene importa fino a un certo punto, perché tu poi c'hai questa seconda, prima e seconda generazione di immigrati che hanno lavorato 40 anni nelle miniere o in lavori di merda, e quando vanno in pensione, se non vivono almeno 9 mesi e mezzo all'anno in Francia, ma magari hanno voglia di tornarsene in Marocco, non hanno diritto alla pensione. Quindi diciamo che sono livelli di garantismo differente dentro i processi produttivi. Quindi quel mondo che è stato capace di muoversi in Francia, raramente un mondo che dentro le città, dentro i movimenti di città, è raramente un mondo che ha un po' a vedere con quelle che so, con quello che sarà un po' forse il futuro dal punto di vista del lavoro e dal punto di vista delle capacità di rivoltarsi delle masse senza volto. Ecco, questo penso io. Vai, se ce n'è degli altri, vai. No, in realtà prima parlavi della coscienza di classe non legata però a una base politica di riferimento, quantomeno marxista-leninista, quindi se hai voglia di approfondire un attimo la cosa, cioè dicevi giustamente, quindi coscienza di classe era, loro sanno benissimo chi è responsabile della loro condizione. In Italia, di nuovo per fare una comparazione, perché a noi serve capire cosa cambiare qui, cioè qui in Italia invece, di nuovo parlando con i colleghi, perché adesso arrivano, magari te lo dice un albanese o un peruviano, perché adesso sono quelli che arrivano cinesi che poi costano ancora meno, ci ruberanno il lavoro, e tu hai voglia di dirgli guarda che il problema è il capo che ti paga poco, mica l'altro che si venda meno. E quindi, cioè, esatto, come sempre, sono sempre i miei preferiti, i miei idoli della vita. Quindi no, la questione è che tu, cioè, mi stupiva questo fatto di, per esempio, come dicevi tu giustamente, persone che arrivano da ex colonie, comunque tradizioni culturali diverse non europee, e che quindi non hanno il socialismo, non hanno nel programma di scuola Marx, l'anticapitalismo e tutto il resto, però una coscienza di classe ce l'hanno. Quindi, cioè, se hai voglia di spiegare cosa significava per le persone che hai incontrato coscienza di classe, e poi magari cosa significa per te e dove è adesso la coscienza di classe, perché il problema è oggettivo. Cioè, quando ci sono persone che arrivano da tradizioni culturali diverse, ha voglia di spiegargli no, perché l'operaio è al centro della società, perché costruisce, quello magari appunto era fino a 2 anni fa in Perù, che cazzo, cioè, non c'entrava niente. Allora, sì, capisco la tua domanda molto chiara. Sì, no, no, sì. Non so, rispetto a tutto il discorso della coscienza di classe presente nelle banlieue, questa è una cosa che all'inizio ha sconvolto in effetti anche me. Ecco, io ad esempio anche qui posso dare un esempio, etnografico. Ecco, io per un periodo di tempo vivevo in un posto occupato, prima di arrivare nelle banlieue, vivevo in un posto occupato a Montreuil, che è un po' la zona, la periferia figa della Francia, di Parigi, e andavo a seguire con l'amica là dove che condividevamo lo squat, andavamo a seguire delle lezioni di teatro per bambini, lei insegnava teatro a sti bambini, in una banlieue. Ecco, la prima mattina lei ha proposto a ste bimbe e sti bimbi di fare, di immaginarsi una storia e poi di rappresentarla. Ecco, qua c'erano tipo 7-8 bambini, bambine, senza avere uno scambio tra di loro, ma ognuno immaginando la storia nella propria testa, hanno 7 su 8 rappresentato l'idea che c'era un qualcuno di extraterrestre che arrivava nella periferia, arrivava in quella banlieue, entrava in una banca, rubava i soldi, ma non per darli a lei, alla sua famiglia, ma per redistribuirli agli abitanti della cité, di quella cité all'interno della banlieue. Questo era il livello di coscienza anche nei ragazzini di 8-9 anni. Questo è un esempio etnografico, però per cogliere un po' questa differenza rispetto a tutto il discorso della coscienza e anche, diciamo, della visione dell'altro, dell'immigrato, eccetera, eccetera. Sì, in Italia sicuramente così. L'esempio che facevi tu dell'albanese, del peruviano, che tende a essere razzista. Diciamo che in Francia tutto questo discorso c'è meno. Tu non troverai mai in Francia uno che è apertamente razzista, perché c'hai, soprattutto nelle periferie, tu hai la metà della popolazione che è di origine migrante. E quindi tutto il discorso dell'integrazione, eccetera, eccetera, è un passo molto più avanti la Francia su quello, perché sia dal punto di vista della capacità di chi subisce questi dispositivi, sia dal punto di vista di chi li cerca di metterli in pratica, nel senso che il discorso dell'integrazione in Francia può essere interpretato come l'idea di un dispositivo dello Stato che tende, non so come dire, a generare una retorica dell'altro, ma nei fatti non esiste questo discorso qua, perché io vivevo a Clichy-sous-Bois, che è una delle periferie effettivamente toste della cintura ad est di Parigi. Là c'era il 60% che erano bianchi, l'altro 40% che non erano bianchi ma erano francesi. Cioè tu tutte le situazioni di difficoltà di avere accesso alla cittadinanza non esistono in banlieue, perché sono effettivamente tutti francesi. Quindi diciamo che tutta la retorica legata al diverso, eccetera, eccetera, non è una retorica che può prendere piede nella banlieue, sia per il passato coloniale, sia perché una percentuale alta di persone ha un'origine migrante, e sia perché anche dentro quella che è la classe operaia bianca delle periferie non c'è un discorso razzista nei confronti di chi è un francese di origine migrante, perché diciamo la condivisione del quartiere, del territorio, la solidarietà epidermica, eccetera, eccetera, è territoriale, è un discorso che esiste da decenni ormai. E anche qua poi, se voleva essere, perché anche tutta questa retorica della Francia dove l'estrema destra avanza perché le banlieue sono in mano all'estrema destra, questa è totalmente una bugia, nuovamente un tentativo di riversare su certe popolazioni lo stigma dell'incapacità di fare politica, ecco. Riprendo il microfono. Altre domande, curiosità, qualcosa che vi viene in mente? Beh, poi anche punti di vista, non per forza domande per lui, poraccio. Tu hai detto che comunque sei riuscito a rapportarti con la maggioranza delle persone, tranne un piccolo gruppo che, siccome eri bianco, non ti accettava, comunque non si voleva relazionare con te. E quindi questi gruppi hanno forte connotazione razziale. E secondo te perché? Sono così piccoli e comunque, secondo me, hanno una forza e anche politica in crescita. Allora, la forza politica di questi gruppi è in crescita, non lo so, ma comunque una presenza forte dentro le periferie, ma tutto il discorso legato a quello che è la non accettazione, diciamo, del bianco è legato, non è legato, almeno in quel caso là, in quei casi là, non era legato a una diversa, diciamo, una visione di una diversa appartenenza, era legato, nel mio caso, secondo me, alla bianchezza in riferimento a un'appartenenza politica dei movimenti, che siano in Italia, che siano in Francia, di movimenti bianchi comunque. Infatti una capacità di accettazione più grossa all'inizio nei miei confronti c'è stata da parte di quei militanti e anche abitanti, in particolare di questi movimenti politico-religiosi, che loro avevano sì una connessione con l'Italia in delle piccole cose, e quindi loro riconoscevano l'Italia un contesto dove la capacità di intervento nelle periferie da parte dei bianchi era una capacità più forte anche per una vicinanza, diciamo, nell'appartenenza di classe. Mentre invece chi mi vedeva come un militante bianco in quei casi non mi ha accettato in quanto militante, però bianco, non in quanto bianco. Se fossi stato un bianco che cresceva in quella banlieue non ci sarebbe stato nessun problema. Però in generale io nell'accesso alle banlieue, sia nei gruppi politici sia nella vita di quartiere, è stata la mia una capacità di rivendicare anche un'appartenenza, perché la volontà di integrarmi nella vita di quartiere e nella vita politica non è stata una cosa automatica, ma io ho rivendicato fin dal primo momento una certa appartenenza mia. E poi io arrivavo in Francia per fare un dottorato, ma senza soldi, quindi ho lavorato in Francia con il Vendola, quindi la mia situazione, per quanto non fosse quella dei Banlieusard, però un richiamo ce l'aveva, perché aveva un richiamo del fatto che io lavorassi, un richiamo del fatto che non ero strettamente inquadrabile come un ricercatore universitario. Il fatto che comunque io in quel momento là in Francia ero un immigrato, perché gli italiani, poi tutta la seconda generazione di italiani che viveva in queste periferie, non è che se la passasse tanto meglio dell'algerino, è questo. Ti vedevo da lì. Parole, quindi volevo suggerirti al microfono. No, in realtà ero curiosa, nel senso che ovviamente a noi sono arrivate delle immagini che erano principalmente quelle delle banlieue in fiamme. Ero curiosa invece di sapere un po' quali fossero le pratiche che tu avevi incontrato e come dire, mi pare di avere capito che c'è una coscienza di classe piuttosto condivisa. Mi chiedevo questo come si sviluppasse in termini di rivendicazioni implicite o esplicite. Bella domanda, Boots, grazie. Allora, ho provato poi nel secondo libro a dare uno schema di quello che definisco movimento collettivo politico di banlieue, che l'ho diviso un po', l'ho suddiviso in tre livelli, sì. C'era tutto quel mondo politico legato alle organizzazioni politiche storiche più recenti di banlieue, poi c'era in mezzo tutto quel mondo che attraverso le rivolte del 2005 aveva cominciato a praticare politica, perché le rivolte del 2005 sono stato un fattore di politicizzazione fortissimo dentro le banlieue. E poi invece c'era tutto quel mondo di giovani e meno giovani che partecipavano alle rivolte, ma non sono mai entrato organicamente nei collettivi politici. Questi collettivi politici che ho visto io, li ho anche, diciamo, incontrati in un momento in cui loro a livello nazionale stavano facendo un tentativo di organizzazione unitaria, quindi io li ho proprio visti all'opera in quel momento là, di organizzazione a livello nazionale per provare a diventare un movimento nazionale, che poi non è riuscita, la cosa che aveva anche un nome preciso, ecco. Quindi ho visto all'opera questa serie di collettivi che dentro le banlieue dove ho vissuto io si occupavano di lavoro nel territorio, che ne so, a parte violenze poliziesche, c'era tutta quella serie di collettivi che si battevano contro i processi di espulsione urbana, perché là poi questo sarebbe un altro capitolo, tutto il discorso della gentrificazione, dell'espulsione dei giovani, degli abitanti delle periferie, sarebbe un capitolo enorme da affrontare. Poi c'era un collettivo molto forte anche a livello nazionale, era quello i collettivi di donne che si occupavano di contrastare la legge infame sul velo che impediva ai bambini e quindi anche alle mamme di andarsi a pigliare i bambini a scuola. C'erano collettivi territoriali che si battevano per il miglioramento dei trasporti, c'erano i collettivi dei pensionati, che appunto la cosa che dicevo prima, che richiedevano la possibilità di poter vivere fuori dalla Francia. Insomma, c'era un mondo politico che si vedeva che era vivo, ma che subiva anche, diciamo, la crisi classica che possono avere i movimenti in questa fase storica. E il lavoro che facevano questi collettivi e questi militanti politici era di rivolgersi a questa nuova generazione che era stata protagonista delle rivolte, in un certo senso ci riuscivano, ma diciamo che il loro agire politico, parlo dei collettivi, era un agire politico che non aveva solo una finalità anzi non aveva per nulla la finalità di sostituirsi, diciamo, al lavoro dello Stato nell'offrire servizi. Era un lavoro politico, un lavoro sociale con delle rivendicazioni politiche precise, ma che aveva una capacità di critica al sistema che è tutt'oggi enorme. E secondo me tutto quello che è successo nel 2023, secondo me, è una cartina della capacità accresciuta di queste componenti di periferia di agire rivolta, che sarà poi non organizzata politicamente, ma nel 2023 secondo me è stata enorme. E quindi secondo me rappresenta anche un po' una conferma di quello che io avevo visto in nuce in quel momento là. Quindi la capacità di rivoltarsi a partire dalle proprie condizioni di vita è il passaggio che manca, è la capacità di organizzarsi e di strutturarsi politicamente in un percorso di lunga durata. Io quello l'ho visto proprio in quel momento là, perché loro tentavano di diventare un movimento nazionale maggiormente strutturato. No, perché a questo punto secondo me ci risuona molto, visto che abbiamo appena fatto i 10 anni di compleanno di questo spazio, e uno dei temi principali che ci è interessato approfondire era quello della confederazione, dei limiti, delle possibilità. Se hai voglia di rimanere un pochino su questo, magari ci dà un elemento in più, diciamo, per proseguire anche dei discorsi che facciamo come collettivo, quindi mi sembra ricco. Cioè, questa cosa di come questi pezzettini si provano a confederare, quindi provano a trovare degli spazi di discussione comune, non so se di rivendicazione comune o comunque di pratiche condivise, proprio non so se in termini anche di cortei condivisi, insomma non so, questa era un po' la domanda, cioè come tutti questi pezzi che tu per adesso ci hai raccontato, come delle realtà che lavorano su delle vertenze in maniera anche abbastanza esplicita, riescono o come non riescono a mettersi insieme, ecco, e a portare, visto che mi sembra che comunque abbiano ben chiaro chi sono i loro oppositori e realisticamente hanno ben chiaro che sono gli stessi. Quindi questa è la domanda successiva a questo punto, è questa. Rispetto al lavoro dei collettivi politici dentro la periferia, secondo me un elemento che andrebbe sottolineato è il fatto che questi collettivi politici lavorano dentro periferie che da un punto di vista, sempre per tornare alla coscienza di classe, sono ben equipaggiate, non so come dire, perché quando io mi riferivo alla coscienza di classe dei giovani, delle bandiere, in realtà poi quella è una coscienza di classe che permea un po' tutta la periferia, perché tu devi, perché bisogna immaginarsi anche nel 2023 questi la capacità di fare 20 giorni di rivolta, o nel 2023 9, ma con danni 7 volte superiori a quelli dei 21 giorni del 2005. Questo dimostra una capacità di solidarietà degli interi quartieri, perché tu poi hai i protagonisti delle rivolte, poi c'hai tutto quel mondo solidale che ruota attorno, che fa sì che in 21 giorni ci siano poco più di 1000 arresti, ecco. Quindi all'interno di quartieri che hanno una sensibilità politica molto forte, ecco. Dentro questo contesto qua, il lavoro che tentavano di fare i collettivi politici era un lavoro in quel momento là che, come dire, puntava innanzitutto a rompere l'isolamento delle persone dentro le periferie, quindi il tentativo di rompere l'individualismo montante che c'era dentro la banlieue, perché quello era un rischio che coinvolgeva, seppur in percentuale molto più bassa rispetto a quella che era la città, ecco, coinvolgeva però anche le periferie. Infatti quello era anche un momento che tutto quell'Islam di stampo consolatorio in quel momento là un po' attecchiva, proprio perché non c'era una visione politica d'insieme. Tutto quel mondo politico era forte, ma era comunque in crisi. E diciamo che il tentativo che facevano i gruppi politici era quello di provare a convogliare questi giovani alla lotta, in primo luogo, innanzitutto, e che non era secondo me una cosa da poco, era senza dare giudizi su quello che era l'operato dei giovani dei banlieusard, perché poi tutti i militanti e tutte le militanti di questi collettivi politici a loro volta erano stati rivoltosi 5 anni prima, 10 anni prima, quindi c'era la capacità di chiudersi attorno ai giovani e di difenderli. Poi c'era il tentativo, e questo era veramente un elemento centrale, era il tentativo di trasmettere tutto il sapere delle lotte che questi avevano accumulato dagli anni 60, perché dentro la Francia, perché non so come dire, l'Italia è un paese di merda, ecco, però diciamo però come dire, tutto quello che è stata la narrazione negli anni 70 del movimento operaio, del tentativo di insurrezione che c'è stato qua, diciamo che almeno in delle fasce di popolazione un certo riconoscimento l'ha avuto. Ecco, la Francia da questo punto di vista non è l'Italia. Non si può dire che è un paese più razzista o meno razzista, è chiaro che dentro l'Europa resiste solo razzismo, però diciamo che la Francia ha tanto da insegnare da questo punto di vista all'Italia, perché la Francia è un paese dove la classe operaia era una cosa che era necessaria, ma era un male necessario, ma da tenere il più lontano possibile. E dentro i movimenti politici, che siano di città o che siano di periferie, tutto ciò che è, come dire, l'odio verso quello che è lo Stato e verso quello che sono le leggi è una cosa fortissima. E questo qua, secondo me, in questa fase storica, dove tutto quello che è legato al sistema di welfare e tutte quelle cose qua, una cosa indubbiamente destinata a scomparire, perché secondo me in una fase di crisi come questa qua, l'idea di rivendicare un salario garantito, che sia, diciamo, un reddito, qualche cosa, tutto ciò che è legato al welfare, è una cosa impossibile. E secondo me questo passaggio del cogliere l'impossibilità di chiedere alcune cose al nemico di classe in quel momento là, secondo me è una cosa che fa fare un salto alle lotte molto forte, perché i giovani delle banlieue si muovono fortemente contro un'idea di Stato, contro un'idea di agenzia del controllo sociale, contro l'idea di tutto ciò che arriva dal centro. E quindi diciamo che il lavoro di rivendicazione è un lavoro molto basso, diciamo che si può dire che loro agiscono senza avere un quadro rivendicativo chiaro, e questo qua, questa mancanza di quadro rivendicativo chiaro molte volte viene visto come impolitico, ma secondo me la mancanza spesso di rivendicazione chiara, perché poi la rivendicazione nel gesto della rivolta, cioè come, secondo me questo è un esempio di politicizzazione in questa fase storica. Non so se si capisce quello che ho provato. Si è capito, abbiamo capito. Qualche altro contributo, così chiudiamo la chiacchierata. Allora, non c'entra molto con le banlieue, però hai detto quest'ultima cosa sulla non politicizzazione di queste persone, le azioni senza rivendicazione, ok? Che mi ha fatto venire in mente la rivolta che è stata fatta in Cile qualche anno fa, quando hanno aumentato il ticket della metropolitana. E in quel periodo un compagno che conosciamo, Miguel, era lì e mi ha detto le stesse identiche cose. E quindi ho pensato, questa cosa non si ferma alle banlieue, ma è mondiale. Cioè, in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi periferia del mondo, siamo banlieue. Non sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, Tavi, sì. È indubbiamente così, secondo me. Però poi qua bisognerebbe, secondo me, aprire tutto un discorso sulla fase storica che si vive, eccetera, eccetera, che quindi è tutto un discorso che magari può fare meglio lo ZAM come spazio che io... Cioè io ho l'idea che questa sia una fase storica di trasformazione in cui, come dire, c'era un concetto, ecco, sociologico lo uso, c'era questa idea di questo concetto, secondo me molto importante, di Foucault, che lui diceva che gli anni in cui lui scriveva, quindi anni 60, anni 70, a cui lui si riferiva, gli anni 60 e gli anni 70, erano una fase di integrazione di tutto quella che era la classe operaia necessaria allo sviluppo del capitalismo. Quindi c'era l'idea del far vivere questo mondo operaio perché era necessario la produzione, e del lasciar morire quindi tutto quello che era marginale, che però era una piccola percentuale. Quindi quello era il periodo di espansione del capitalismo, un periodo in cui tu alla classe operaia gli dovevi garantire un welfare, gli dovevi garantire una sanità, gli dovevi garantire tutto perché ne avevi bisogno. Ecco, adesso c'è un po', questo lo dice Quadrelli, però c'è un po' un capovolgimento, lo diceva Emilio, sì, c'è un capovolgimento un po' di questo assunto foucaultiano, che questo è un periodo piuttosto in cui la crisi economica è talmente forte che lasciar morire, quindi far morire fette importanti di classe operaia perché non è necessaria al sistema produttivo, è probabilmente una realtà. Quindi l'idea di welfare, l'idea di... E secondo me ci sono alcune periferie del mondo, penso, ma io mi riferisco alle banlieue nel mio caso, che questo passaggio ce l'hanno molto chiaro. Quindi la relazione che hanno con lo Stato è una relazione senza più nessuna mediazione, quindi senza più nessuna rivendicazione. Però, secondo me, siccome io parto dall'idea che le agenzie del controllo sociale e tutto quello che si muove a livello repressivo spesso sono molto avanti nel, diciamo, nel mostrare l'impostazione di quella della società, quindi dai comportamenti della controparte si capisce spesso, ecco, il 2023 in Francia, secondo me, se da un lato ha visto una rivolta dove veramente fuori dall'atto politico dell'insurrezione non c'era alcuna rivendicazione, la stessa cosa tu però lo puoi dire anche, secondo me si potrebbe dire anche in relazione all'atteggiamento dello Stato, perché in Francia nel 2005, quando c'è stata la rivolta nelle banlieue, a parte polizia e repressione, questi hanno messo una quantità di soldi dentro le periferie che cioè se li mettessero qua diverrebbe come, cioè, molti soldi. Nel 2023, oltre alla repressione, non c'è stata niente, quindi anche lo Stato ha dimostrato che non esiste più nessuna possibilità di mediazione. Hanno armato la polizia fino ai denti, hanno mandato l'esercito, cosa che non c'era stata nel 2005, e per la prima volta hanno rotto anche un po' quel patto, quell'idea tipicamente francese della République, quell'idea di Stato forte, forte, è stata completamente rotta, perché loro la prima cosa che hanno fatto era arrestare, chiedere l'arresto dei genitori di sti giovani qua, hanno accusato l'istituzione per eccellenza della borghesia, la famiglia, dicendo che le madri non erano buone madri perché avevano i figli schizzati che distruggevano, bruciavano le periferie. Ecco, quella era una cosa che nel 2005 era improponibile. Invece adesso lo Stato ha mostrato un volto che è un volto senza più nessuna mediazione. Ad esempio anche il fatto che la polizia è diventata veramente in questo momento qua in Francia un corpo separato, quello è un movimento sociale, perché per 20 anni in Italia si diceva, anche dentro aree militanti, che i movimenti non esistevano più, eccetera eccetera, c'erano le moltitudini, c'erano ecco, invece la Francia ha dimostrato nel 2023 che c'è il movimento delle banlieue, il movimento della città e il movimento della polizia, un vero e proprio movimento sociale, che definiva i giovani delle banlieue nel comunicato della SAP francese i giovani delle banlieue li definiva come nuisable. Nuisable è un termine che in francese significa una categoria di animali che sono particolarmente dannosi per le colture, come si dice, e che quindi si possono ammazzare andando oltre il divieto di caccia, che quindi tu le leggi sulla caccia non c'entrano, puoi sempre ammazzare quello là. Ecco, loro definivano così gli abitanti delle banlieue. Nel 2005 questo salto non c'era ancora, quindi la mediazione in chiave di welfare e di intervento dentro la periferia era forte, cioè era fortissimo. Infatti nel 2023 i beni contro lo Stato, tutto quello che riguarda le biblioteche, le merie, quelle cose là, sono stati toccati molto più profondamente nelle rivolte. E secondo me, qua chiudo, non ti distresso più, perché questo secondo me anche quel riavvicinamento che c'è stato con i movimenti di città, perché c'è stato negli ultimi anni, secondo me è dovuto anche a quello, è dovuto al fatto che tutto un segmento di quel mondo di città non vive più, non può essere più inserito dentro la cornice di una classe media che aspira a migliorare il proprio status. Quel discorso là non esiste quasi più in Francia, e quindi qua rispondo anche al compagno là, sul fatto che tutto quel mondo di, come dire, dell'impiego pubblico eccetera eccetera è un mondo che è destinato a scomparire, e quindi questo ha creato un riavvicinamento politico con i movimenti di città e anche un riavvicinamento nelle pratiche politiche, perché le banlieue nel 2023, una cosa secondo me molto interessante era che per la prima volta dall'83 ci sono state delle rivolte che hanno utilizzato come pratica politica anche quello del saccheggio, e quella sicuramente è una pratica che loro hanno preso dai movimenti di città, perché nei vari cicli di lotta contro le pensioni, anche già con i gilets jaunes, l'idea dei saccheggi era una cosa praticata. E quindi questo fa vedere un riavvicinamento fra le frange un po' proletarie della Francia all'interno di un quadro dove però la distanza col mondo politico, una distanza col mondo istituzionale, una distanza completa, abissale da tutti e due i lati, perché la fase storica prevede quello. Grazie. Io... sì, lo so, infatti stavo dicendo che... c'è una corroborante, pasta e ceci, non fagioli, quindi vi saluterei così, buona pasta e ceci a tutti, a tutte e a tutto, grazie, grazie tante, sotto per averci... ci ha regalato dei libri. Sono 1800 persone che vogliono comprare libri, ecco, ti ringraziamo ancora dei libri, e ci farebbe molto piacere se qualora passassi altre volte da Milano, se ci vieni a trovare, visto che no, dai, perché ci fa piacere conoscere compagni nuovi che hanno legami diversi e che si uniscono tipo satelliti, va bene? Sì, infatti, grazie mille, ciao.